L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ancora ben ritrovati da Laura Bettini. Questa settimana continueremo a parlare di cibo, restiamo quindi nel filone dell'Expo di Milano, ma usciamo dall'Expo, perché in settimana, sempre a Milano, si è svolta l'edizione 2015 di Tutto Food, salone dell'agroalimentare organizzato da Fiera Milano, che ha visto la partecipazione di circa 2500 aziende di tutti i comparti della filiera agroalimentare, per l'appunto. E per noi è stata l'occasione di approfondire due questioni che ci interessavano particolarmente. Questo grazie alla collaborazione di Claudia Vanni e Adriano Palazzolo, che hanno seguito per noi il salone. La prima questione sarà quella delle etichette alimentari, la seconda farine e intolleranze alimentari. A questo punto diamo spazio ad Adriano Palazzolo, che ci introduce al tema delle etichette con questa prima intervista realizzata con l'avvocato Silvia Bucci di Assica, che è l'associazione industriali delle carni e dei salumi. Che tipo di informazioni dobbiamo leggere in un'etichetta? Allora, il nuovo regolamento 1169 del 2011, che è entrato in vigore il 13 dicembre dell'anno scorso, ha completato le disposizioni in materia di etichettatura con l'obiettivo di rendere il consumatore sempre più informato. Non sono molte le aggiunte che sono state fatte rispetto alla precedente normativa, però sono ugualmente significative. Allora, prima di tutto la denominazione dell'alimento, che vuol dire che cos'è l'alimento, l'elenco degli ingredienti, devono essere evidenziati nell'elenco degli ingredienti, e questa è una novità, tutti gli elementi che possono portare allergie o intolleranze, la quantità di alcuni ingredienti, quanto per esempio vengono evidenziati in etichetta, e nella denominazione di vendita, scusate, la quantità dell'alimento, cioè quanto è quello che compriamo, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, che significano quanto dura l'alimento. Poi importantissimo è il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che si assume la responsabilità dal punto di vista dell'etichettatura del prodotto, perché questo è il punto di riferimento per il consumatore, che leggendo il nome dell'azienda può sapere chi ha fatto il prodotto, oppure in ogni caso, se si tratta di un prodotto a marchio, chi si assume la responsabilità dell'etichettatura. Poi le istruzioni per l'uso, nel caso il prodotto presenta delle particolarità, una dichiarazione nutrizionale che sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016 e in determinati casi paese di origine o di provenienza, che il regolamento stabilisce quali casi è obbligatorio. La dichiarazione nutrizionale sarebbe la tabella nutrizionale? Esattamente. Ecco, al momento quindi la tabella nutrizionale sulle carni e sui preparati di carne non è obbligatoria. Quando lo diventerà, dovranno essere inseriti obbligatoriamente alcune voci. Queste voci quali sono? Allora, innanzitutto l'etichettatura nutrizionale è uguale per tutti gli alimenti, quindi non ce n'è una specifica per le carni. Diciamo che al momento non è obbligatoria, diventa obbligatoria quando io volontariamente do un'informazione nutrizionale sull'alimento. Per esempio, se indico la quantità di grasso, allora per completezza, per dare un'informazione migliore al consumatore, devo riportare la tabella nutrizionale. La tabella nutrizionale, che verrà a partire obbligatoriamente dal 13 dicembre 2016, avrà come nutrienti il valore energetico, i grassi, gli acidi grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale. Questi sono 7 nutrienti obbligatori a cui si possono aggiungere ulteriori informazioni di altri nutrienti, ma questo soltanto, come per esempio l'amido o le fibre, le vitamine, ma soltanto a carattere volontario, in aggiunta a quelli obbligatori. E ora sentiamo un altro avvocato al microfono di Adriano Palazzolo, si chiama Neva Monari ed è specializzata proprio nel settore alimentare. Quando si parla di etichette, nel caso in cui ci siano dei problemi con un prodotto, che siano acque o che siano prodotti confezionati, le responsabilità su chi ricadono? Parlando di prodotti preconfezionati, il legislatore comunitario è stato molto chiaro nell'individuare la responsabilità a carico del soggetto che appone sull'etichetta il proprio marchio. Quindi nel caso di un'impresa che metta che produca proprio marchio e metta il nome e risponderà all'azienda produttrice. Nel caso in cui sia un prodotto a marchio della grande distribuzione, e risponderà alla grande distribuzione. Quali sono gli strumenti in mano al consumatore? Il consumatore ha numerosi strumenti in questi anni che gli sono stati dati anche dalle nuove norme in materia di sia dell'informazione del consumatore sia delle pratiche scorrette. Può inoltrare delle segnalazioni alle autorità competenti, sia all'autorità garante, sia alle autorità di controllo, sia ovviamente anche richiedere chiarimenti alle aziende produttrici e distributrici, che in genere sono molto disponibili su questo punto. C'è un vulnus legislativo ancora o è tutto coperto per quanto riguarda il mondo delle etichette? Per quanto mi concerne è anche troppo coperto. Ci sono moltissime norme che si sovrappongono le une con le altre e vorrei spezzare una lancia a contrario. Non sempre una normazione dettagliata aiuta la chiarezza, perché tende anzi a dare un'eccessiva frammentazione, a disperdersi nel dettaglio, e vengono meno poi dei principi generali, si perdono un po' di vista i principi generali che noi abbiamo e che l'Italia in prima battuta ha da molti anni a presidio del consumatore e delle imprese. E a questo punto è il momento di dar voce a due industriali del settore. Torniamo prima ad Assica con Davide Calderone, che è il direttore dell'associazione. Quali sono le richieste dei produttori? Le richieste dei produttori sono quelle di avere norme identiche in tutta l'Unione Europea. La normativa di etichettatura è a carattere chiaramente comunitario, è una materia demandata alla Commissione Europea e alle sue istituzioni a Bruxelles, quindi Parlamento e Consiglio, e quindi noi chiediamo che ci siano delle regole uniformi. Sicuramente è molto importante l'aspetto che riguarda l'origine per i prodotti a base di carne, e non viene mai ricordato abbastanza quanto sia costoso e impegnativo per le aziende riportare l'origine degli ingredienti, della materia prima sui prodotti, in particolare i prodotti macinati, mi riferisco la mortadella, mi riferisco al salame, dove possono esserci origini superiori a una o due. E sono informazioni che l'industria ha, chiaramente, le norme sulla tracciabilità sono chiare e messe in pratica da diversi anni, ma una cosa è avere l'informazione, un'altra è trasferirla in etichetta. Quindi noi siamo molto preoccupati per iniziative dello Stato italiano in particolare, volte a restringere il concetto di origine obbligatoria. Alberto Bertone invece è il presidente di Acqua Sant'Anna. Una delle cose importanti nell'etichettatura, ma che tante volte non riusciamo a fare bene, ma potremmo fare meglio, a aumentare quello che è il carattere minimo di legge delle etichette, perché sempre più il consumatore dopo una certa età ha difficoltà a leggere piccolo, per cui c'è sempre più cose da scrivere di legge, per cui è difficile far riportare un packaging piccolo tutte le normative, tutte tutto quello che dobbiamo scrivere. Una delle cose belle che speriamo nel futuro di sostituire quello che è la dicitura sull'etichetta con dei codici che permettono, con o il telefonino o con altri sistemi, di leggere in tutte le lingue del mondo, e per cui di non avere problemi, e rimandiamo, ormai abbiamo tutti un telefonino e potremmo non riportare più un'etichetta, ma con questo codice che dobbiamo uniformare per tutti i prodotti, che possiamo leggere tutte le nostre etichette mandando filmati, mandando cioè tutta la storia, anche nei succhi di frutta, da dove è stata raccolta e tutto, e non solo le informazioni minime di legge, che tante volte confondono i consumatori e non danno invece la giusta importanza. Quanto il settore ricerca e sviluppo di un'azienda come la vostra è impegnato in nuove soluzioni di etichettatura? Per noi è fondamentale, è ancora molto più importante da quando abbiamo deciso da un anno a questa parte di affrontare i mercati stranieri. Con l'intervista ad Alberto Bertone e con le etichette ci fermiamo qui. Tra poco parliamo, come promesso, di farine e intolleranze alimentari. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini, stiamo parlando di Tutto Food, il salone dell'agroalimentare organizzato da Fiera Milano che si è tenuto nel corso della settimana. C'è stata per noi anche Claudia Vanni che è andata in cerca di chiarimenti su farine e intolleranze alimentari. Ne ha prima parlato con Federica Branchi, medico specializzando in gastroenterologia al Policlinico di Milano, per capire le differenze tra la vera celiachia e la moda gluten free. Bisogna essenzialmente distinguere fra la celiachia, in cui quello che si sente è tutto vero, e la cosiddetta sensibilità al glutine e anche la moda del gluten free. Per quello che riguarda la celiachia, è una patologia assolutamente riconosciuta che ha un meccanismo di origine che appunto è dato dalla ingestione di glutine, che provoca un danno all'intestino e che viene risolta con la dieta priva di glutine. È una malattia vera e propria, può avere dei suoi rischi e la dieta priva di glutine è una vera e propria terapia. Per quello che riguarda invece la sensibilità al glutine, si tratta di una entità relativamente nuova che stiamo cercando di indagare. Consiste in una serie di sintomi sia gastrointestinali che extraintestinali, come mal di testa o deconcentrazione o crampi muscolari, che il paziente e il medico stesso associa all'ingestione di glutine, ma che non ha i criteri diagnostici consolidati per la malattia celiaca né quelli per un'allergia al grano, un'allergia alimentare al grano. Seguire una dieta gluten free se non se ne ha bisogno può essere dannoso allo stesso modo? Allora, seguire una dieta priva di glutine di per sé non è dannoso. Bisogna però fare attenzione, perché la dieta prima di tutto deve essere equilibrata dal punto di vista nutrizionale e calorico, e spesso intraprendere una dieta, anche quella priva di glutine, da soli, senza una consulenza di uno specialista o l'aiuto di un nutrizionista o di un dietologo, può portare, non per il fatto che è senza glutine, ma per il fatto che è squilibrata, a dei problemi. Di che cifre parliamo? Quanto è diffusa come malattia? Allora, per quello che riguarda la celiachia abbiamo dei dati abbastanza chiari. Sappiamo che la prevalenza in Italia e in Europa è fra 1 a 150 e 1 a 100. Quindi circa 1 su 100 è verosimilmente affetto da celiachia, con sicurezza un italiano su 150. Per quello che riguarda invece la sensibilità al glutine, o come tutto questo spettro di nuove forme associate all'ingestione di glutine, non si sa ancora bene. Dei dati ci riferiscono che fra il 3 e il 5% della popolazione inizia a scegliere di togliere il glutine dalla dieta per motivi di disturbi. Può comportare dei cambiamenti nella dieta alimentare della cittadinanza in generale? Pensiamo alla nostra dieta mediterranea. Allora, che effettivamente la dieta mediterranea è ricchissima di carboidrati, prevalentemente provenienti appunto da frumento e derivati. Quindi che un'attenzione al togliere il glutine dalla dieta potrebbe effettivamente pesare molto sull'equilibrio delle tradizioni italiane. E ora che abbiamo chiarito il quadro, c'è Marcello Ferrarini, famoso chef, anche lui gluten free, perché celiaco in prima persona. E ho iniziato a lavorare in questo settore grazie anche alla patologia, alla diagnosi di celiachia a 30 anni. Io vengo da una famiglia d'arte, mio nonno è stato uno chef, mia mamma una gastronoma, ma ciò nonostante all'inizio avevo seguito un'altra strada. Poi evidentemente avevo passione per la cucina, quella era innata e l'avevo evidentemente nel DNA, e grazie alla celiachia mi sono riavvicinato in una maniera abbastanza sperimentale alla cucina senza glutine. Oggi, grazie anche a dei prodotti di qualità senza glutine, made in Italy, Italy possiamo mettere in tavola degli ottimi piatti che possono essere condivisi da tutti i commensali, grazie appunto anche alla qualità e alla ricerca che si sta facendo in questa direzione, perché poi la tavola è un momento di condivisione, non deve essere un momento di differenze, no? Nella diffusione della cucina italiana nel mondo ci possono essere delle difficoltà maggiori dati i crescenti fenomeni di intolleranze alimentari, soprattutto alle farine, che sono un po' uno dei nostri elementi base della cucina made in Italy. Certo, guarda, la nostra dieta è basata appunto su quella che è pane, pizza, pasta, quindi farinaci. Ecco che entra molto in gioco in questo caso la celiachia o comunque i prodotti alternativi come la farina di riso, la farina di mais, il grano saraceno, i pseudo cereali come la quinoa, l'amaranto. E sono tutti dei prodotti che non sono così immediati nel loro utilizzo. Diciamo che presentano delle difficoltà maggiori nella lavorazione, nella preparazione e anche nel servizio, proprio perché quando manca il glutine manca quella che è la maglia glutinica, appunto la gliadina, che dà consistenza, dà tenacia ai nostri impasti, quindi bisogna avere degli accorgimenti metodologici e tecnici. Però grazie anche alle tecnologie, allo sviluppo e alla sperimentazione che si sta facendo in questi anni, si sta arrivando veramente a dei prodotti quasi indistinguibili. L'Italia risulta svantaggiata in questo processo di ricerca di risposte? Qui in Italia abbiamo delle grandi realtà che lavorano in questa direzione, che lavorano bene, lavorano con prodotti made in Italy, no OGM, senza addensanti chimici, e quindi grazie anche alla cultura italiana della tradizione alimentare non partiamo assolutamente svantaggiati, ma partiamo con una conoscenza maggiore. Diciamo che lo svantaggio, a mio parere, deriva più dall'utente, nel senso che l'utente italiano è un abile mangiatore ed è un ottimo degustatore, di conseguenza casomai può rimanere fossilizzato a dei preconcetti di gusto, di sapore, di consistenze legati alla celiachia, che oggi, come ti dicevo prima, sono un po' sorpassati. Andiamo verso una direzione qualitativa eccellente. Lamberto Guerrero invece è presidente di Cuochi Italiani, associazione di chef nata nel 1700, ci spiega come siano cambiati gli ingredienti a seguito della globalizzazione e della insorgenza e diffusione delle intolleranze alimentari. L'intervista è sempre di Claudia Vanni. Com'è cambiata la cucina in questi ultimi decenni? Non è più quella che si faceva 200 anni fa. E non è quella che si faceva 20 anni fa. Cambia in continuazione, quindi anche noi siamo dietro l'evoluzione, no? Che ci piaccia o no, questo è il mondo, quindi la globalizzazione, anzitutto i prodotti, le cotture, i tempi di conservazione degli alimenti, quindi anche noi dobbiamo stare attenti a tutto quello che è il progresso, no? Fra virgolette, lo dico con molto rispetto di tutti, nel bene e nel male, no? Perché noi siamo i culturi della nostra tradizione, delle nostre valli, della nostra cucina tipica, golosa in tutto il mondo. Ma dobbiamo anche stare attenti a tutto quello che sono i grassi, quelli che sono i condimenti, quindi preferiamo allo strutto di una volta, al burro, l'olio extravergine, cioè, stiamo attenti anche a queste cose, quindi un po' di trasformazione, anche sui dolci, non sempre solo burro, ma anche olio. Secondo lei che cosa è migliorato e che cosa si è perso invece rispetto al passato? Come ho detto prima, si sta migliorando sui tempi di cottura, con le pentole, con le induzioni, abbiamo tutto un sistema innovativo, i forni ancora parlano da solo, si lavano da soli, quindi abbiamo una tecnologia incredibile. Stiamo perdendo forse un pochino quello che è la tradizione, i gusti, i sapori. Noi cuochi oggi non siamo più come era 20 anni fa, attaccati a un fornello a spadellare, punto e basta. Quando arriva nel ristorante una persona che ti dice sono celiaco, sono intollerante a, tu devi essere capace a farlo mangiare e non farlo sentire a disagio. Questa è la grande sfida che sta toccando tutto quello che sono i cappelli bianchi in giro per l'Italia e non solo. Claudia Piantoni è proprietaria di Molino Piantoni, un'azienda bresciana. Oltre alla produzione tradizionale sta portando avanti progetti di ricerca su farine per intolleranti. Il nostro mulino in questi ultimi tempi ha deciso di investire soprattutto in qualità e non in quantità, e come dicevo poc'anzi non è una frase retorica ma è la pura semplice verità, tant'è che da qualche anno a questa parte abbiamo investito nei progetti di ricerca e proprio un mese fa è stato approvato anche un altro progetto dalla Regione Lombardia per quanto riguarda lo studio del monococco. Che cos'è il monococco? Il monococco è un cereale antico che è coltivato soprattutto nella pianura bresciana. Infatti noi stiamo utilizzando un monococco registrato con il marchio Shebar, che è un marchio registrato grazie a un progetto che qualche anno fa la Regione Lombardia ha finanziato per 350.000 euro. Il monococco è un cereale alternativo rispetto al classico frumento che noi utilizziamo tal quale. Perché? Perché abbiamo visto, grazie al professor Lanzini dell'Istituto di Gastroenterologia del Civile, che ha un glutine a catena corta. Questo, a differenza del frumento tal quale, che invece è un glutine a lunga catena, rappresenta una maggior digeribilità e quindi un miglior assorbimento rispetto a un cereale tal quale. Questa maggior digeribilità permette quindi l'utilizzo dei prodotti a base di monococco agli intolleranti, non di certo ai celiaci, per in quanto noi non siamo appunto il settore più idoneo per occuparci di una malattia vera e propria. Soprattutto consideriamo che in questi ultimi tempi si tende a demonizzare tanto la farina e tutti i mulini che producono la farina dal frumento, cosa che realmente non è vera, in quanto il glutine non lo ritroviamo solo nelle farine, ma lo ritroviamo anche in tante altre preparazioni, quali possono essere appunto insaccati, possono essere hamburger o altre tipologie di prodotti. È un'opportunità per aprire nuovi mercati o è una difficoltà che i produttori si trovano ad affrontare? Di certo è una sfida che ci siamo proposti di fare, soprattutto in questi ultimi periodi, visto e considerato che si parla addirittura di farine velenose o di farine carcerogene. Infatti cliccando ad esempio su farina 00 nel sito di internet si legge farina velenosa, farina carcerogena, farine raffinate, ma la raffinazione non è nient'altro che un passaggio della macinazione del frumento per ottenere la farina. È anche vero che ci sono passaggi diversi che separano le varie fasi della cariosside, però è anche vero che la farina non è cosiddetto prodotto raffinato, sembra quasi di utilizzare un termine che passi addirittura al chimico, a un prodotto chimico che crea chissà quali problematiche, quali difficoltà. Gli investimenti sono tanti, le dirò che un primo passo è stato appunto questo, investire nella ricerca con gli ospedali civili. Perché una volta non si soffriva delle farine classiche? Perché oggi secondo lei siamo finiti ad essere quasi intolleranti a tutto? Come l'ho detto prima, perché c'è un abuso di tutto quello che concerne l'utilizzo del glutine, quindi non si ritrova solamente nella farina tal quale, ma purtroppo il glutine si ritrova in tantissimi altri prodotti che oggi però non sono menzionati come prodotti velenosi, c'è solo la farina prodotto velenoso, pensiamo appunto agli hamburger, agli insaccati che quasi quotidianamente comunque utilizziamo contengono lo stesso glutine e anche in percentuali abbastanza elevate. Ci fermiamo qui con questa puntata, vi ricordo per scriverci l'altropianeta@radio24.it, ringrazio i nostri collaboratori Adriano Palazzolo e Claudia Vanni, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini un buon ascolto.